quello chi fu, che t'amato quello che possiedi tu, i più rari fiori, i più ardenti cuor, e un cielo pieno di stelle d'or. Bella più di te una donna c'è, tu ne sei gelosa, tu lo sai chi è. Quanti marinar vengono dal mar, quante bocche in ansia fai sussurrar. Maria Laos, lasciati baciar. Maria Laos, io ti voglio amar. Se mi guardi tu, non resisto più. Sento nascere nel mio cuore tanto amor. Maria Laos, lasciati baciar. Maria Laos, tu mi fai sognar. Nel mio cuore ti porterò, mai ti scorderò. Maria Laos, lasciati baciar. Maria Laos, tu mi fai sognar. Nel mio cuore ti porterò, mai ti scorderò. Maria Laos.